giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'Amerigo Vespucci è in vista del Golfo di Trieste. Il veliero ha accelerato la sua navigazione verso la città e ora è in attesa che a terra e in mare tutto sia pronto per la grande festa con cui la nave scuola della Marina sarà accolta in Italia dopo un tour mondiale di quasi 2 anni. A terra la festa è in svolgimento da ieri, diverse le attrattive, la principale è la nave d'assalto Trieste, l'unità più grande della nostra marina. Nel GR la storia del Vespucci, quasi centenario, e del suo gemello Cristoforo Colombo, unità che dopo la guerra fu ceduta all'Unione Sovietica e fu distrutta da un incendio nel 63. La sospensione delle prestazioni sanitarie nel privato convenzionato diventa un fascicolo giudiziario aperto contro ignoti dalla Procura di Trieste. Si potrebbe ipotizzare l'interruzione di pubblico servizio. Al Tribunale di Trieste è stata depositata dopo la mezzanotte la perizia sul cadavere di Liliana Resinovic. La triestina scomparsa nel dicembre del 2021 è ritrovata senza vita il 5 gennaio nel boschetto di San Giovanni. La notizia arriva da Paolo Bevilacqua, legale del vedovo della donna, Sebastiano Visintin. Piccola, impegnata nel commercio e nei servizi e concentrate soprattutto in carne nel Tarvisiano, è l'identikit delle imprese femminili del Friuli Venezia Giulia, secondo il centro studi della Camera di Commercio Pordenone Udine. Sono in tutto quasi 22.000. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. A Trieste è il grande giorno della festa per il rientro in Italia del Vespucci, il veliero scuola della Marina Militare, impegnato in un giro del mondo durato quasi 2 anni. La nave è già arrivata da diverse ore nel Golfo di Trieste, l'attracco è programmato per il primo pomeriggio. All'ormeggio, accanto alla stazione marittima, c'è già la nave d'assalto anfibio Trieste, la più grande in servizio nella Marina, già visitatissima da centinaia di persone. L'Amerigo Vespucci sarà accolto da oltre 1200 imbarcazioni iscritte a un'edizione speciale della Barcolana che in parata poi la scorteranno fino alla costa. La città sarà anche sorvolata 2 volte dalle frecce tricolori. La tappa triestina del Vespucci segna la fine del tour mondiale e l'inizio di quello nel Mediterraneo lungo le coste italiane, ma anche con 2 toccate in porti esteri. La tournée si concluderà a Genova il 10 giugno in occasione della giornata della Marina. Il punto su quanto sta avvenendo sulle rive e quanto avverrà nel nostro primo servizio. A Trieste oggi è il giorno della grande festa per il ritorno in Italia dell'Amerigo Vespucci, il celebre veliero scuola della Marina Militare. Sospinto dalla bora, conclude il suo tour mondiale dopo 2 anni, 35 tappe nei 5 continenti. L'evento sarà accompagnato da una spettacolare cornice di celebrazioni. Alle 14 il Vespucci sarà accolto da oltre 1200 imbarcazioni, protagoniste di una edizione speciale della Barcolana, mentre alle 14.45 e alle 15.10 le frecce tricolori solcheranno il cielo con 2 passaggi. Il Vespucci troverà al suo fianco la nave d'assalto anfibio Trieste, già visitatissima negli ultimi giorni, è la più grande della Marina italiana, costruita a Castellammare di Stabia da Fincantieri, proprio come il Vespucci, quasi un secolo fa. Le visite al veliero, prenotabili online, sono già tutte esaurite. Il tour del Vespucci proseguirà poi nel Mediterraneo con tappe lungo le coste italiane e 2 scali all'estero, per concludersi il 10 giugno a Genova, in occasione della giornata della Marina. Diverse le autorità presenti quest'oggi per una celebrazione che si terrà proprio sul Trieste. Ampia copertura mediatica per l'evento, oltre ai nostri notiziari, Rai 1 sarà collegata in diretta dalle 15.20 alle 16.45. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E la festa è in corso già da ieri e sta attirando centinaia di persone giunte anche da lontano. Migliaia di persone hanno cominciato ad affollarsi già dalle prime ore della mattina attorno alle transenne del villaggio In Italia, gli stand sulle rive di Trieste che mettono in mostra le eccellenze italiane, da cui si attenderà l'attracco della Vespucci. Quando arriva la nave è la domanda più diffusa tra i curiosi, triestini ma non solo. Tanti bambini presenti, tutti con sciarpe e cappelli per proteggersi dalla bora. La lunga giornata della Vespuccia è cominciata nel Palazzo della Regione, con l'inaugurazione della mostra fotografica A tutto tondo, che documenta il tour mondiale appena concluso della nave scuola della Marina Militare. Autore delle foto è Massimo Sestini, che da 35 anni fotografa con la Marina, noto alle cronache recenti per aver rischiato la vita nel lago ghiacciato di Lavarone. In mostra le immagini spettacolari della Vespucci in tutto il mondo, da Tokyo a Barcellona. Sentiamo Massimo Sestini. È una delle più belle soddisfazioni della mia vita, perché grazie alla Marina ho avuto l'opportunità di fare il giro del mondo insieme al Vespucci. L'ho rincorso da tutte le parti del mondo, ho avuto l'onore di essere imbarcato per una dozzina di giorni e virare Capo Horn di notte alle 2:30. È stata veramente una delle esperienze professionali più belle della mia vita. Tanta l'attesa anche per l'edizione speciale della Barcolana. Più di 1300 barche renderanno omaggio alla Vespucci. Mitja Jaluz, presidente della società velica di Barcola e Grignano. Barcolana ha ospitato nave Vespucci nel 2018, la Marina ci ha fatto l'onore di portare la nave scuola per il 50° alla Barcolana, ci sembrava giusto ricambiare questo omaggio. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La storia del veliero Vespucci è quasi centenaria e non tutti sanno che la nave scuola della Marina Militare alla sua nascita aveva una sorta di gemello. Nello Rega, giornalista di Regnus 24, ne ripercorre la vicenda in questo servizio. La storia del Vespucci, l'unità più anziana in servizio della Marina Militare, nasce il 22 febbraio 1931, 94 anni fa, il varo dal Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia. A progettarla l'ingegner Francesco Rotundi, un omaggio alle maestose fregate a tre alberi dell'Ottocento. Le sue linee eleganti rievocano la silhouette di quelle navi che solcavano gli oceani portando con sé l'avventura e il sogno di nuove terre. Lo scafo, bianco e nero come un gabbiano in volo, adornato da dettagli in oro che luccicano come stelle in una notte serena, sculture in legno ricordano l'opulenza e la bellezza delle navi di un tempo, un ponte tra passato e presente. Dalla maestria del foggiano Rotundi, tre anni prima, nel 1928, era nata un'altra nave scuola, la Cristoforo Colombo, entrambe destinate all'addestramento degli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno. Ma il destino dei due velieri si divise alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il Colombo andò come indennizzo alla loro Unione Sovietica, dove rimase pochi anni in attività con il nome di Danubio, e poi fu distrutto da un incendio. Vespucci, invece, che ha nella sua sala del consiglio un dipinto raffigurante lo sbarco di Colombo a San Salvador, che la sera prima della consegna ai sovietici sarebbe stato recuperato da alcuni giovani ufficiali italiani, prosegue la sua navigazione verso nuovi traguardi, l'ultimo in ordine di tempo, il tour mondiale che si concluderà il prossimo 10 giugno a Genova, fedele al suo motto: non chi comincia, ma quel che persevera. E qui conserva il fascino di sempre, grazie anche alle cure e all'amore del suo equipaggio, che non ha mai dimenticato il progetto che ha dato i suoi natali, ed ora continua a vivere miglio dopo miglio. Noi cambiamo argomento. La vicenda della sospensione delle prestazioni sanitarie da parte delle strutture private convenzionate ha un risvolto giudiziario. La Procura di Trieste ha aperto un fascicolo, ancora contro ignoti, col quale la magistratura intende valutare se ci sarà un impatto sull'utenza e di quali proporzioni sarà. Si potrebbe ipotizzare l'interruzione del pubblico servizio. L'ultimo atto per ora è quello della Procura di Trieste, che ha aperto un fascicolo di indagine per interruzione di servizio pubblico. I magistrati si inseriscono così nel braccio di ferro tra gli operatori della sanità privata in Friuli Venezia Giulia e la regione stessa. Al centro il nuovo tariffario dei rimborsi erogati dal pubblico per le prestazioni affidate ai privati. Il documento, stilato dal governo, prevede cali dal 20 al 60% a seconda delle voci. Come risposta, le strutture private hanno deciso da oggi di congelare alcune prestazioni sanitarie come TAC, risonanze magnetiche, magnetiche e sedute di riabilitazione. Secondo alcune stime potrebbe saltare 500.000 di visite. Le nuove tariffe non sono sostenibili per le strutture della regione, aveva spiegato nei giorni scorsi Claudio Riccobone, presidente di Assosalute, che si trovano ad affrontare anche i costi aumentati per il personale e l'energia. Nonostante siano ferme da 20 anni, aveva fatto notare, la richiesta non è di aumentarle ma di mantenere quelle già esistenti, per poi puntualizzare che il Friuli Venezia Giulia avrebbe potuto derogare al documento governativo cercando una soluzione condivisa, come hanno fatto in modi differenti Veneto e Lombardia. Non è d'accordo l'assessore regionale alla salute Riccardi, che in precedenza aveva dichiarato che la regione non può intervenire sui nuovi codici, sui quali, ha ricordato, grava un contenzioso giudiziario sollevato dal privato accreditato di tutta Italia presso i tribunali amministrativi. Prima di prendere qualsiasi decisione, aveva dichiarato, serve attendere il pronunciamento della Corte. Intanto, sull'iniziativa della Procura di Trieste, nessuno dei soggetti in questione ha rilasciato dichiarazioni. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Tribunale di Trieste è stata depositata poco dopo la mezzanotte la perizia sul cadavere di Liliana Resinovic. La triestina, scomparsa nel dicembre 2021, è ritrovata senza vita il 5 gennaio nel boschetto di San Giovanni. La notizia arriva da Paolo Bevilacqua, legale del vedovo della donna, Sebastiano Visintin, che dichiara di non essere ancora a conoscenza di quanto emerso dalla relazione dell'antropologa forense Cristina Cattaneo, a cui hanno partecipato i medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, in aggiunta all'entomologo Stefano Vanin. La perizia era stata richiesta dal giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti nel giugno del 2023, a seguito della richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Trieste, che era stata contestata dai legali dei parenti della donna. Risale a gennaio 2024 la decisione di riesumare la salma della Resinovic, mentre la tempistica della perizia, in origine fissata a metà dicembre 2024, è stata rimandata da prima a metà gennaio 2025 e poi a metà febbraio, per essere infine disposta entro fine febbraio. Un auto articolato che viaggiava da Venezia verso Udine mercoledì scorso è uscito di strada lungo lo svincolo che collega la 4 con la 23, finendo nella scarpata dopo aver divelto le barriere di protezione. La polizia stradale di Palmanova ha accertato che il conducente, rimasto illeso, aveva un tasso alcolemico di 0,36 grammi per litro. Per questo motivo è stata applicata una sanzione di 420 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Gli autisti professionali sono tenuti al rispetto della norma alcol zero. Le operazioni di recupero del mezzo hanno causato la chiusura temporanea dello svincolo. Presentazione ufficiale della lista di Fratelli d'Italia per le comunali di Pordenone del 13-14 aprile, a sostegno del candidato sindaco Alessandro Basso. Presenti i ministri Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. La lista di Fratelli d'Italia per le elezioni comunali di Pordenone del 13 e 14 aprile, a sostegno del candidato sindaco Alessandro Basso, si è presentata alla cittadinanza. Lo ha fatto sfoderando due ministri del governo Meloni, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, l'europarlamentare Alessandro Ciriani e i parlamentari Walter Rizzetto e Emanuele Loperfido. Una lista di 40 persone, consigliere e consiglieri uscenti e volti nuovi del mondo della scuola, della sanità, delle imprese che si candidano per portare avanti il lavoro degli ultimi 9 anni. Sono stati citati 240 milioni di euro di fondi recuperati e il fondo sociale raddoppiato per quella che è stata definita una Pordenone rivoluzionata, non più ai margini ma con una nuova centralità in regione. Lo perfido ha citato su tutti il progetto di università in centro. Il ministro Ciriani ha ripercorso la crescita del partito e ha attaccato l'opposizione per quello che ha definito il disastro del nuovo ospedale. Lollobrigida ha sottolineato come la vittoria dell'ex sindaco Ciriani nel 2016, primo capoluogo di provincia guida Fratelli d'Italia, fu un tassello fondamentale nella storia del partito. Nei pressi del Teatro Verdi, dove si è tenuta la presentazione, e in altri punti del centro storico sono comparse scritte ingiuriose nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Vice Matteo Salvini, realizzate nella notte con lo spray. Sono in corso le indagini della Digos per risalire agli autori. Già prima dell'arrivo dei ministri molte scritte erano state coperte. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono un migliaio ogni anno le nuove imprese femminili nella nostra regione e il Friuli Venezia Giulia si colloca leggermente al di sopra della media nazionale. Piccole, impegnate nel commercio e nei servizi e concentrate soprattutto in Carni e nel Tarvisiano. È la fotografia delle imprese femminili del Friuli Venezia Giulia scattata dal centro studi della Camera di Commercio Pordenone Udine. Nel 2024 in regione sono nate 1.344 imprese femminili, 49 in più rispetto al 2023, e i settori nei quali si sono creati i maggiori spazi sono stati le attività di servizi per la persona, prevalentemente servizi di parrucchiere ed estetista, commercio, alloggio e ristorazione e il settore primario. Il numero delle imprese femminili in regione è in leggera flessione, anche se con 21.791 imprese il Friuli Venezia Giulia si colloca leggermente al di sopra della media italiana. A livello di ruoli esecutivi nelle società di capitali, le donne a fine 2024 ne detengono 32.676. Nell'analisi 2025 per la prima volta è stato aggiunto allo studio l'esame dei flussi di spostamento per studio e lavoro in regione. Ed è emersa una singolarità: se le aree di movimento per gli uomini sono 11, per le donne la regione risulta suddivisa in 12 poli attrattivi, uno in più, a indicare una tendenza a spostamenti minori nel caso delle donne. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:45 minuti e 30 secondi, passiamo al meteo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 10,5 gradi, con vento da est-nord-est, dunque bora a 36 km orari e raffiche fino a 62 km orari. A Gorizia, Udine e Pordenone 12,5 gradi. In area montana Tolmezzo e Forni di Sopra 6 gradi, Biancavallo 2. In quota sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan -4,5 gradi. Sulla costa Grado e Lignano 11,5 gradi. Ed ecco le previsioni. Oggi cielo da variabile a nuvoloso, ma dal pomeriggio sera saranno possibili schiarite a partire da nord. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà bora moderata, raffiche sostenute nelle prossime ore e in serata a Trieste. Domani, domenica, cielo in prevalenza sereno ma con persistenza di nubi basse nel Tarvisiano al mattino. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, sulla zona di Trieste bora sostenuta con possibili raffiche anche forti. Vuole far dialogare pubblico e attori in un rapporto di condivisione il teatro partecipativo, indicato con il termine di teatro sferico, in cui il pubblico siede con gli attori in disposizione circolare, contribuendo in modo attivo alla creazione delle scene. Obiettivo dell'iniziativa è riportare il teatro alla funzione originaria di spazio di incontro e di valorizzazione delle peculiarità del posto. L'esperienza di teatro sferico sarà proposta a Pordenone, al Centro Culturale di Largo Cervignano, alle 18. Ne abbiamo parlato con il fondatore dell'associazione Action to Be e direttore dell'iniziativa, Marco Finetti. Il modo in cui funziona uno spettacolo di teatro sferico è basato essenzialmente sulla raccolta di emozioni, storie, aneddoti che provengono direttamente dal pubblico e che viene accompagnato a comprendere intanto il meccanismo del teatro sferico, che vede la messa in scena di narrazioni al momento attraverso tecniche di improvvisazione teatrale. Il pubblico è accompagnato con metodologie che noi chiamiamo di group building, ovvero di costruzione un po' dell'identità del gruppo. In altre parole, questo cerchio di persone che possiamo immaginare costituito da tante tipologie di persone, ok? Possono essere appunto in uno spettacolo semplici avventori piuttosto che appartenenti anche a strutture aziendali piuttosto che altro. In questo caso con la compagnia di arti e mestieri questa sera andremo a mettere in scena appunto le storie che verranno narrate proprio in rapporto a quello che significa essere comunità. In altre parole, un po' questo senso di appartenenza, no? Che un po' tutti abbiamo e di cui tutti abbiamo bisogno, un po' questa appartenenza potremmo dire all'essere tutti sullo stesso piano, ecco, un po' in barba alle condizioni, come dire, che questo mondo contemporaneo ci invia, no? E ci invita invece a vivere. Il teatro sferico ci mette tutti sullo stesso cerchio e promuove questa circolarità. Uno spettacolo, ecco appunto, è costituito da alcune fasi che permettono di accogliere il pubblico, di metterlo a proprio agio e attraverso alcuni giochi e forme che si chiamano sociometriche, alcune alzate di mano per comprendere in altre parole chi è presente, eccetera. Il pubblico viene messo a proprio agio e vengono poi raccolte appunto queste storie. Ogni storia reale narrata in quel momento viene messa in scena lì, in quel momento stesso. Siamo allo sport, il calcio. L'Udinese scende in campo al Friuli contro il Parma, la partita alle 20:45. In Serie C la Triestina sarà impegnata alle 15 al Gavagni Nocini sul campo della Virtus Verona. L'allenatore alabardato Attilio Tesser, ricordando le ultime 5 vittorie consecutive dei veneti, ha anche sottolineato le ultime 4 partite vittoriose dei giuliani. Pallanuoto in Serie A1 maschile. Nella 7ª giornata di ritorno del campionato, la Pallanuoto Trieste ospiterà la De Acker Bologna alla Bruno Bianchi con inizio alle 18. Delicata la sfida in chiave classifica per i giuliani, che condividono il quarto posto con la Romano Visnova e con Posillipo, inseguiti appunto da Bologna. In Serie A1 femminile, dopo gli impegni di Eurocup e Coppa Italia, le orchette ospiteranno la Lazio Nuoto con inizio alle 15:45. Praticamente al sicuro per le atlete triestine i playoff scudetto, considerato il notevole vantaggio in classifica con 24 punti. Appuntamenti culturali, la rassegna estensione Jazz Club Diffuso prosegue con il concerto dei Tega Tega Afro Beach, composto da musicisti da Brasile, Francia e Italia. In programma non solo brani noti di autori celebri dell'Afrobeat, ma anche brani originali ispirati a funk brasiliano, vibrazioni africane ed energia europea. Appuntamento a Monfalcone, al locale Il Carso in corso del Popolo, alle 21. Primavera Ver Sacrum è la mostra personale dell'artista friulano Lorenzo Vale, con rappresentazioni di giardini, fiori e piante che anticipano le atmosfere della fine dell'inverno, a Cividale del Friuli presso la chiesa di Santa Maria dei Battuti. Inaugurazione alle 18. La mostra sarà accessibile fino al 30 marzo, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Guida d'eccezione questo weekend al MIRS, il Museo Interattivo della Radio della Società, con le visite condotte da Pier Giorgio Vendramini, donatore di oltre 400 radio d'epoca, che illustrerà aneddoti, dettagli tecnici ed estetici in un'esperienza interattiva coinvolgente per un pubblico di tutte le età. Appuntamento a Paseno di Pordenone al MIRS alle 16, visita prenotabile al sito del museo www.mirsmuseo.it. È incentrato sui disastri sanitari ed ecologici procurati agli abitanti e all'ambiente della Sardegna dalle attività militari il documentario Terra a perdere, l'opera realizzata dalla giornalista Simona Tarzia e l'operatore video Fabio Palli, sarà presentata dagli autori a Trieste al Comitato Pace, Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci in via Val di Rivo alle 20. E ora uno sguardo alle nostre rubriche. Domani va in onda Est-Ovest, la trasmissione di approfondimento sull'Europa centro-orientale, alla radio su questa frequenza alle 6:05, in TV su Rai 3 alle 11:05. Ecco il contenuto della puntata. Il film Il generale dell'armata morta, osteggiato negli anni Ottanta dalle diplomazie di Italia e Albania. I riti magici degli Svonciari in Croazia, una maschera che scaccia l'inverno e risveglia la primavera. Il Kosovo tra speranze e timori aspetta di capire quale sarà la politica di Trump nei Balcani. Molti giovani europei scelgono di studiare a Bucarest sia per ragioni economiche sia per motivi politici. Starship, un robot costruito in Estonia che a Tallinn da 10 anni sostituisce postini e corrieri. Tutto questo a Est-Ovest domenica alle 11:05 su Rai 3. E domani mattina su questa frequenza, dopo il nostro notiziario, andrà in onda Vita nei Campi. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani parlerà in apertura di gestione dei boschi con un programma gratuito dell'Università di Udine. A seguire la memoria olfattiva della campagna e dell'AIA che rischia di scomparire, raccontata da Angelo Floramo. Nella rubrica della meccanizzazione si parla di automazione in agricoltura nei campi e tempo di rivoluzione digitale. È ancora in Carso con il suo per provare il terrano autoctono raro e di forte carattere, la fermentazione lattica per conservare e arricchire gli aromi delle verdure, nello spazio dei fiori l'elicriso, fior di carta rustico e colorato. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Appuntamento a domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. Si intitola Metamorphosis, la mostra personale del giovane artista venezuelano Juan Velasco, opere pittoriche ed alto rilievi realizzati con materiali e oggetti di recupero che nell'atto artistico rinascono appunto in una vera e propria metamorfosi. Legno, ferro, bicchieri, bottiglie e tessuti subiscono quindi una trasformazione in stile steampunk che vuole essere anche la metafora della capacità di reinventarsi. La rassegna, curata da Gabriella Di Pietro, si inaugura alle 18 nella Galleria Rettori Tribbio di Trieste. Lo scrittore e giornalista Gabriele Santoro presenta il suo libro Tutti i colori del rosso in dialogo con Francesco De Filippo a Trieste alla libreria Lovat alle 18. Fra le pagine un viaggio nella storia della sinistra europea e mondiale dopo la caduta del muro che riflette e indaga l'attualità politica italiana, internazionale e le sfide poste dal disordine globale in cui stiamo immersi. Luciano Vasta presenterà il suo libro La follia di Marina, incentrato sul dramma delle donne rinchiuse fra le mura di un manicomio, a Udine, alla libreria Friuli, alle 18. L'attrice Federica Cifola sarà protagonista dello spettacolo Mammazzo, che riflette sul ruolo delle madri al giorno d'oggi, analizzando le vicende di alcune mamme famose del mondo dello spettacolo, a Trieste, al Miela, alle 18. La quinta rassegna del folklore serbo proporrà l'eredità culturale serba attraverso i suoi balli folcloristici dichiarati patrimonio culturale UNESCO a Trieste al Teatro Stabile Sloveno in via Petronio alle 17. Sono le 12:56 minuti. L'assistenza tecnica è stata curata da Corrado Spunton e da Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Valentina Beneruso. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 14:30, l'orario del sabato, su questa frequenza. Vi invitiamo anche a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili Facebook, Twitter e Telegram della redazione e anche sul sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Grazie della cortese attenzione. Da Maria Spezia e da Antonio Cajazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.